Liverpool. Sì. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Franco Piantanini dal nostro autore, Roberto Scatriti, regia Claudio Schiattoni in redazione. C'è ancora con me Giovanni Capuano, mi fa molto piacere. Ciao Giovanni. Ciao, non ti lascio. Bravo, io ti vengo a trovare la domenica in cambio, eh? A darti fastidio. Ciao Pierluigi Pardo. Se mi lasci non vale, come va? Sì, benissimo, e tu? Tutto a posto. Tutto. Vieni anche tu domenica? Io domenica vengo, sì, la notizia è dell'ultima ora, vengo, passo. Che ridete? Che cosa ti tocca in cabina di commento? Empoli-Juve. Un test. Dimmi qualcosa su Bassi, che sarà il migliore in campo. Perché dici che ormai la partita dei portieri è... Sì, perché poi c'è anche questo, insomma, l'abbiamo anche commentato ieri, però c'è anche questa maledizione dei portieri. Ragazzi, però... il portiere è un giocatore dell'altra squadra, tu vai al bar, tutti gli juventini ti dicono: vabbè, però è possibile, i portieri con noi, è una congiura, sono pagati dalla Roma. Sono prezzolati, ci sono i bonifici. No, a parte le battute, è chiaro che non sono pagati dalla Roma, fanno parte del gioco, però insomma poi sono un elemento che su una partita o due partite o tre partite può avere un peso. Poi è chiaro che nel computo intero di una stagione non è che puoi pensare che i portieri, insomma, alla fine tutto si dovrebbe più o meno compensare. Ma sì, poi se Bassi domani fa la cappella, l'ha pagato la Juventus. Certo. Questo è evidente. Comunque neanche il tempo di uscire da un infrasettimanale come minimo intenso, ed ecco che ci tuffiamo tra 25 ore in una partita che ha mille significati, molti dei quali anche perversi, come sappiamo, tristi e difficili. Napoli-Roma. Garcia ha detto una cosa, la cosa più banale del mondo, ma in fondo l'unica vera: per me il calcio deve essere una festa, non una guerra. Nel calcio deve esserci amicizia, rispetto agli altri colori, eccetera. Poi sentiamo comunque tutte le voci di questa vigilia. Giovanni, si poteva fare di più, secondo me. In che senso? Nel senso che sono arrivati tanti appelli in queste ore, che poi spesso gli appelli non servono a niente, ma hanno almeno un valore simbolico. Adesso registriamo queste parole di Garcia, ha detto qualcosina anche Benitez, però mi sembra sia mancato un avvicinamento a questa partita all'altezza dei rischi, non tanto di ordine pubblico, perché domani ci saranno solo i napoletani, ci saranno più poliziotti che tifosi. E De Rossi ha detto meglio così, ecco, giustamente. Ma ci mancherebbe, però forse sarebbe servito un avvicinamento diverso. Mi sarebbe piaciuto De Rossi, Totti, Higuain, tanti giocatori. Mi sarebbe piaciuto che dicessero qualcosa, che facessero qualche gesto importante, che poi è simbolico, perché il gesto più importante sarebbe tagliare i legami con le curve e smetterla di legittimarle. Però questa è un momento importante. Sì, oppure è stata scelta la via di un composto silenzio. Sì, anche la via più comoda, Sì. Cosa dici, Piero? Io credo che la Roma si è sentita sempre molto distante da questa cosa qui, forse anche un po' per la cultura degli americani, che è una cultura sportiva molto, molto alta. Credo che si siano sentiti un po' in imbarazzo in questo tipo di situazione. Ci fu una presa di posizione molto forte dopo Roma-Juve, ricorderete che Roma-Juve la Curva Sud disse delle cose abbastanza farneticanti, che poi la stessa Curva Sud, gliene diamo atto, ha corretto chiaramente. Fra l'altro abbiamo saputo poi dal racconto della mamma di Ciro che ci sono stati tifosi e una delegazione della Curva Sud che li ha incontrati, che l'ha incontrata, insomma, in maniera privata, in forma privata. Quindi poi delle cose in privato sono successe. Mi risulta anche che ci sia stato in queste ore un colloquio cordiale e assolutamente costruttivo fra alcuni dirigenti della Roma e la mamma di Ciro. Quindi io credo che la Roma abbia scelto la strada della non delle cose eclatanti, sì, ma quasi per rimarcare il fatto che non ha nulla a che vedere con questo tipo di situazione, cioè che tutto questo è avvenuto lontano dallo stadio, è avvenuto in una situazione che evidentemente dovrà ancora essere chiarita, ed è quanto di più distante dalla mentalità degli americani. Io sono d'accordo con Capuano, cioè io penso che queste cose qui, a parte il fatto che come diciamo ieri sera a Tiki Taka, poi comunque chi vuole delinquere, perché qui stiamo parlando di questo, stiamo parlando di atteggiamenti delinquenziali, lo fa a prescindere, non sono le parole della mamma di Ciro, non sono lo scam, la maglietta di Totti, amo Napoli, o la maglietta di Higuaín, amo Roma, a cambiare questo tipo di atteggiamento, purtroppo. Sicuramente dal punto di vista simbolico qualcosa di più eclatante lo si poteva fare, su questo sono particolarmente d'accordo, ma credo che la motivazione sia proprio questa, che la Roma prende la distanza. E a me non dispiace, ti dico la verità, invece, come atteggiamento, prendere la distanza ci può stare. Episodio di cronaca nera, di delinquenza comune, di follia. Si prende distanza da un episodio. Il problema è che quelle distanze lì non sono poi mai prese alla radice del problema. La Roma prende le distanze da quell'episodio, ma continua a far sfilare i giocatori sotto la curva, li presenta lì, usa anche dal punto di vista coreografico le curve. La Roma, come tanti altri, come praticamente tutte le altre, è lì la radice del problema. Allora, prima di Napoli-Roma si poteva fare qualcosa di simbolico, ma si poteva anche non fare, per carità, non succede niente. Il problema è che noi siamo 6 mesi dopo a parlare di una realtà che in realtà non è cambiata. Sì, e questo lo dicono i dati, lo dicono i numeri, lo dicono quelli del Viminale. Certo, ed è una realtà da moltissimi anni. Lo dice la Roma, che paga 12.000 euro di multa per i cori Vesuvio e Lavali Tutti dell'altra sera, e non dice niente, non fa nulla, non va a cercare il responsabile che li ha lanciati. Non fa niente, è questo secondo me il vero problema. Poi si poteva anche fare il gesto, e secondo me manca, però siamo sempre lì. 800 24 00 24, numero verde. Saverio da Somma Vesuviana: spererei tanto di nuovo al gemellaggio, in un gemellaggio tra napoletani e romanisti, viva il derby del sole di una volta. È utopia, forza Napoli, utopia, credo al momento di sì. Sono mesi che lanciamo messaggi distensivi, a prescindere da quello che la tragedia che è successa qui a Roma prima della fine di Coppa Italia, quella ha esasperato, credo, i toni e il clima. I nostri tifosi non ci saranno a Napoli e credo che sia naturalmente meglio. Io spero che sia una partita maschia, sicuramente ci sarà tanto calore allo stadio perché la rivalità si è accesa anche dopo quell'evento lì, però se vogliamo andare a essere insomma un po' più pratici, noi non c'entriamo niente, né i giocatori né i tifosi della Roma in generale. Convocati. Bellini, ma dove trovi tutta quella voce? Dal bordo campo del San Paolo, 9 volte Gonzalo! Vabbè ragazzi, ma quella era una notte magica, la notte di Champions League. La voce è voce, tanta roba. Non ce l'hai, ma ce l'hai la voce, non è che quella notte ispirazione ti viene. Quella notte fu magica, e lo stesso Gonzalo, ogni volta che mi vede mi prende un po' in giro e mi dice: ah, sei l'unico decibel aver detto il mio nome 9 volte. Prende sempre un po' in giro, quindi no, quella notte fu magica, la voce venne fuori davvero in maniera facile. E quella di domani come la immagini? Domani spero bene sia a livello sportivo che a livello insomma umano, perché mi auguro che possa, non dico essere una festa perché non ci saranno comunque tifosi della Roma, però che possa essere una festa sportiva in primo luogo, e poi speriamo dai prossimi anni di poter vedere una festa anche umana sugli spazi. Quel tipo di sentimento, Carlo, che dicevi qualche istante fa, no? Sì. della voglia del gemellaggio, noi ieri abbiamo fatto una serie di approfondimenti su questo, secondo me è molto, molto sentito a Roma e anche a Napoli. premesso che poi i gemellaggi in realtà sono una stortura pure loro, perché se c'è un gemellaggio c'è sempre qualcun altro che è rivale, non so come dirti, no? Sono bellissimi i gemellaggi sicuramente, quello fra Genoa e Napoli è fantastico, i tifosi che si mescolano, però poi dietro al gemellaggio c'è sempre il rovescio della medaglia, che evidentemente se sono alleati fra di loro c'è qualcun altro che gli sta sulle palle, quindi questo bisogna sempre secondo me stare un po' attenti, però tornare a un clima sicuramente più sereno da parte di due tifoserie che io lo dico a Roma, lo dico a Napoli e lo dico anche qui a tutta Italia, sono molto simili, perché se ci sono due squadre italiane che hanno lo stesso tipo di modo, di approccio di vivere la partita, la stessa quantità di radio locali che fanno 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, informazione sulla squadra, cioè sono veramente due squadre molto totalizzanti dal punto di vista della passione vissuta dai tifosi, non è che i tifosi delle altre squadre tifino di meno, però per una serie di combinazioni il tifoso della Roma e il tifoso del Napoli come massa completa di casino, di informazione, di passione, di entusiasmo, insomma sono molto simili e quindi è ancora più paradossale tutto questo, secondo me. Detto questo, poi sì, è inutile che ci raccontiamo le cose, io ho fatto incontrare Zampa, Auriemma, noi siamo pieni di persone di Roma, di Napoli che si frequentano, si intrecciano, si innamorano, si sposano, vanno a Ponte insieme, poi però questa è veramente una questione criminale di poche persone, ed è veramente un ricatto che pochissime persone fanno alla stragrande maggioranza degli abitanti di queste due città. Poi sono ovviamente anche i laziali, però voglio dire, quanti saranno i romanisti a Roma? Saranno 2000, non lo so, fate voi i calcoli. Quanta gente c'è che vive sotto scacco per questa roba qui? È veramente di una tristezza che non ha confini. Sì, è anche vero che tra Napoli e Roma c'è sempre stata una accesa rivalità sportiva, no? Daniele. Sì, ma quello sì, quello ci può stare, quello ci può stare. Quello ci può stare e noi a noi piace scherzare, così come anche ai tifosi della Roma ci piace il gioco il giorno dopo, lo sfottò il giorno dopo, però dobbiamo tornare a quello secondo me, perché è impossibile dover pensare di consolare una mamma come la mamma di Ciro, che insomma spesso e volentieri è con noi nelle manifestazioni che facciamo per cercare di ricordare sempre la memoria di questo ragazzo, è triste dover pensare che una mamma non ha più un figlio perché è andato a vedere una partita di calcio. Questo non deve assolutamente più succedere. Senti, raccontami una partita da bordocampo, perché io sono invidioso da morire. Pardo anche lui, i bordocampisti li usa, però sta in cabina di regia. Giovanni Capuano sta qua a Radio 24. Pardo di tanto in tanto viene a San Paolo e quando viene devo dire di tanto in tanto quando viene a San Paolo è sempre, si fa sempre la passeggiatina sul prato prima di andare poi su in postazione. Quindi ci incontriamo e che ti devo raccontare? Ti racconto di una sensazione che è unica, dove siamo noi, dove sono io, dove è la mia postazione, che è la postazione vicinissima alla panchina del Napoli. Si sente l'entusiasmo del pubblico, si sente quando c'è tensione in campo, si sente quando sta andando bene la squadra e quindi i tifosi incitano i propri beniamini. Si sente tutto e quindi questo è secondo me il bello del calcio, questa è la differenza che passa tra il calcio e un altro sport. Quando c'è un'azione incredibile al San Paolo non riesco a parlare con il mio vicino di bordo calcio, cioè non riusciamo a parlarci perché c'è il boato. Sì. E questo ti fa venire la pelle d'oca. Guarda, io mi ricorderò sempre Napoli-Manchester City, dove veramente io i primi 3-4 minuti di telecronaca, tutto il momento della musica, cioè non riuscivo a sentirmi nel microfono perché è una roba pazzesca, il livello di decibel è veramente pazzesco e anche in questo secondo me Roma e Napoli sono molto simili perché ci sono dei posti dove con la passione esageri un filo di più, ripeto, poi il tifoso vero è tifoso sempre, il tifoso vero del Chievo, cito una squadra che magari ha una curva un po' più vuota, è comunque innamorato esattamente come tutti gli altri, quindi non stiamo discutendo il livello di passione, è il casino complessivo che i tifosi riescono a generare e quanto è totalizzante la passione, quanto diventa un tema all'interno della città, quanto riempie le radio, ecco, in questo veramente queste due squadre hanno qualcosa in comune, è un dato di fatto, insomma, che gli scudetti al nord vengono festeggiati in maniera un po' più sobria degli scudetti al sud, anche perché al sud o al centro-sud avvengono più di rado, quindi c'è anche questo aspetto, ovviamente, però secondo me c'è proprio un aspetto di approccio e di visione del calcio, e questo è oggettivo, insomma. Quindi fa doppiamente rabbia tutto questo, perché poi in realtà secondo me sono molto più simili di quanto poi possano voler dimostrare di essere, ecco. E poi la cosa è, e chiudo su questo argomento, la cosa bella è che anche i nostri avversari sono impazziscono per l'atmosfera che c'è a San Paolo, come immagino anche quella che c'è in altri stadi d'Italia, ma quella che c'è a San Paolo è un'atmosfera che piace anche ai nostri avversari. Quando abbiamo incontrato giocatori del Marsiglia negli spogliatoi, loro, e io mi sono poi imbarazzato anche un po', mi hanno chiesto la fotografia: ah, tu sei lo speaker Gonzalo Higuain, piuttosto che le dichiarazioni rilasciate a Yaya Touré qualche tempo fa sullo stadio San Paolo. Cioè questa grande forza che sono i tifosi ovunque nel mondo, non solo a Napoli, fanno il calcio bello, sì. E questo lo riconoscono anche i grandissimi campioni. Ma sai, anche per gli avversari, anche sì, per gli avversari è bello giocare in atmosfera del genere, no? Ma anche se poi San Paolo ha mille difetti ed è uno stadio 3000, che andrebbe 3500 posti più, perché si è fermata un'infiltrazione d'acqua che c'era nella curva A, e quindi saltano fuori 3500 biglietti in più. Senti Daniele, ma domani che succede? Perché poi tu sei anche un pezzo di quello che succede in campo. Mi piacerebbe sapere se siete stati chiesto qualcosa di particolare per il prepartita, se stanno studiando qualcosa di particolare per una giornata che non è normale. Assolutamente no, almeno per il momento, perché le riunioni le facciamo veramente poco prima della partita. Io mi auguro, ripeto, che sia una grande festa di sport. Mi auguro, da primo tifoso del Napoli, di poter urlare tantissime volte il nome del marcatore. E niente, insomma, di grandi iniziative almeno per il momento non ce ne sono, però ripeto, le riunioni le faremo domani mattina. Toglimi un'ultima curiosità, sì. Qual è l'indicatore che ti fa capire che il Napoli c'è sul campo? Cioè, quando li vedi cosa guardi? Quando capisci che il Napoli, ok, questa sera ce la possiamo fare, questa sera urlo? Ma spesso da quando scendono dall'autobus, perché abbiamo un ingresso poi privato dove siamo solo noi, e lì i ragazzi li vedi già carichi, poi io li accolgo sul terreno di gioco quando salgono, quindi c'è una sorta di piccola accoglienza che facciamo con i tifosi, c'è un urlo che facciamo quando salgono dalle scalette dentro sul terreno di gioco, e lì proprio ti rendi conto che ci sono, che sono pronti, che sono carichi. Molto spesso, e questo è un aneddoto che ho anche raccontato ad altri vostri colleghi e l'ho anche detto tante volte sulle pagine social, molto spesso Higuain, per esempio, per dirtene uno, mi dice 2 ore prima della partita: oh, Decibel, pronto, oggi urli. Ma te lo dice poi nel momento in cui veramente segna, e quindi io sono sempre felice quando lui mi dice cose così. Cioè, gli occhi sono lo specchio dell'anima, mi stai dicendo questo? Un po' sì. Grazie, po'. Grazie Daniele. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Tu parlo, cosa guardi per capire che il Napoli c'è? Beh, posso dirti che Elena Turra, che fra l'altro nel passato è stata proprio responsabile della comunicazione della Roma, e adesso lo fa in maniera sempre molto, molto qualitativa alla Fiorentina, mi diceva sempre questa cosa qui, che lei lo capiva dalle facce all'uscita dal pullman. Cioè, ci sono delle cose, poi è chiaro che delle volte non basta, no? Delle volte hai delle sensazioni che magari vengono in qualche modo condizionate e si rivelano sbagliate, però io credo che questo, insomma, la componente motivazionale del calcio è evidentemente fondamentale, che non vuol dire che ci siano squadre che vogliono perdere apposta, ma no, è chiaro, però chi ci crede un filo di più. Ma quante volte hai visto il giocatore che sta per tirare il rigore? Ne abbiamo viste tante, no? Lo guardi in faccia e dice: ok, questo qua lo segna, sono sicuro. Ti faccio un esempio: Shevchenko nella finale di Champions League contro la Juventus, l'ho guardato in faccia, ho detto: non sbaglia mai, cioè si può andare in cucina a prendere un bicchiere d'acqua sicuro. Altre volte li guardi in faccia, dice... un po' così, guardava arbitro pallone, arbitro pallone, arbitro pallone. Però è vero, però alla fine la messa, quindi sì, anche se credo ci sia un po' di letteratura, Pier, su questa storia degli occhi della tigre scendendo dal pullman, poi in realtà loro scendono con queste cuffione, si ascoltano la musica che vogliono. Molto spesso abbiamo imparato, non c'è più nemmeno la condivisione di quel momento del viaggio del pullman che magari i sudamericani hanno, no? Ce l'hanno raccontato al mondiale, dove ballano, cantano insieme, fanno gruppo, si caricano. Però a noi piace pensare che quegli occhi lì siano gli occhi che possiamo correre a scommettere, no? Sì, perché becchiamo live sicuramente. A noi piace pensare, perché il calcio è una storia essenzialmente romantica, e quindi è chiaro che ci piace pensare questo. Al tifoso, ma anche semplicemente agli appassionati come siamo noi, piace pensare che tutto sia letterario, no? Che ci sia appunto una squadra che riesce a sognare più in grande, più in forte di un'altra, e che i calciatori vivono soltanto di quello. Secondo me è vero, è mediamente vero, nel senso che comunque poi alla fine i calciatori ci credono, vogliono vincere, non vogliono mai perdere, sono... Insomma, appunto, quando qualcuno dice giocano contro l'allenatore, per me è una boiata pazzesca, non giocano mai contro l'allenatore. Poi ci sono degli allenatori che riescono a tirar fuori di più o di meno, degli allenatori che si fanno amare di più o di meno, è il famoso gettarsi nel fuoco, no? Sì. Avere quella, ma è una cosa talmente istintiva, non è una cosa di volontà, è che di fronte a certe situazioni moltiplichi l'energia e non sai nemmeno tu come, perché c'è qualcuno che inconsciamente ti entra nel cervello, ti prende il cervello e il cuore, e tu per lui riesci a dare qualcosa di più. Senti, non poi sempre succede questo. Fermiamoci per la borsa, poi sentiamo anche un po' di voci, innanzitutto quelle dei nostri ascoltatori Marco da Prato e Samuele da Venezia, che sono già in linea, 800 24 00 24, il numero verde, ma poi anche quelle degli allenatori, Garcia Benitez naturalmente o Mazzarri. Non sto a contare i fischi, siamo in democrazia, ognuno la pensa come vuole. Dopo. Beh, mi sembra politico, politically correct. Strano. La pensa diversamente. Strano. Convocati. Dunque, subito ascoltatori, con Pardo che è collegato con noi, Giovanni Capuano qui con me, Marco da Prato e Samuele da Venezia, innanzitutto grazie per la pazienza. 800 24 00 24. Marco. Pronto. Eccomi. Pronto. Pronto. Allora, innanzitutto volevo fare gli auguri per domani, per la partita di Napoli, perché spero sia una bella partita. Poi mi volevo ricollegare a quello che aveva detto Pardo la scorsa settimana, purtroppo non sempre ho la possibilità di ascoltarvi, sì. E quando diceva che ci sono delle partite che fanno più notizia di altre, e riguardo sempre a Roma, a Juventus-Roma. Io volevo dire una cosa, ci sono le squadre che fanno più notizia di altre, non le partite, perché quando Castellazzi ha battuto Marchisio in area interista e poi la Juventus vinse il primo anno di Conte, nessuno disse niente. Quando Asamoah fece gol contro l'Inter, nonostante l'Inter avesse vinto, venne giù il mondo. Peluso, gol annullato, nessuno ha detto niente. La scorsa giornata è venuto giù il mondo. Ma è la Juventus che fa notizia, no? Mi sembra che no, allora fa notizia la Juventus, fa notizia l'Inter, fa notizia la Roma, fa Peluso, notizia Peluso se ne è parlato, Peluso lo dico senza nessuna polemica, Peluso ci fu tutta, se ne parlò per settimane con tutta la polemica sul fatto che non c'erano le immagini, e le immagini in quella circostanza in effetti non chiarivano, erano immagini Rai, ma non perché la Rai sia meno brava, cioè che magari c'era un assetto diverso nella configurazione delle telecamere, per cui mi ricordo che appunto ci fu la polemica Sky e Meredith su quella partita, era una partita di Coppa Italia, e lì le immagini non chiarirono, se ne parlò. Secondo me ci sono, io non sono d'accordo, io penso che quando la Juve, l'Inter, cioè io da questo punto di vista Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma, le grandissime squadre, le grandi partite di cui si parla, secondo me sono partite nelle quali poi se succedono gli episodi arbitrali se ne parla molto. Poi è chiaro che se Juve e Roma arrivano 15 pari in testa alla classifica con un'attesa mostruosa, punteggio pieno, e in quella partita succede di tutto da una parte e dall'altra sicuramente, però succede di tutto, c'è una quantità di episodi di quel tipo, siamo di fronte proprio alla tempesta perfetta, cioè è ovvio, certo, che se ne parlasse tantissimo, certo. Non francamente non, così come non credo che ci sia un accanimento nei confronti di una squadra piuttosto che un'altra, non penso che ci sia, cioè ognuno, io faccio un programma dove è pieno di gente che mi dice ma come fai a invitare Mughini, ma come fai a invitare Ciccio Valenti, ma c'ha ragione solo Mughini, o quell'altro, cioè il tifoso è così, insomma. Sì, no, è così. Io non credo neanche alle manie di persecuzione. Domani arbitra Tagliavento, Napoli-Roma, e c'è il signor Manganelli che fa il quarto uomo. Manganelli, Pier, tu non lo sai, ma è quello che non avevano avvisato che c'era il complotto per far vincere lo scudetto alla Juventus, altrimenti avrebbe alzato la bandierina sul gol di Antonini, che era anche facile, era lì centimetro più centimetro meno. Invece lui è rimasto. Domani fa il quarto uomo Napoli-Roma. Era buono, l'abbiamo detto ieri, però si poteva anche sbagliare, no? Era al limite, certo. E lui è rimasto giù, non l'avevano avvisato. In caso di complotto, io al complotto non ci veramente lo dico. Ma domani fa il quarto uomo alla Roma, attenzione. Io al complotto non ci credo, credo che ci siano delle partite, degli arbitraggi come quello di Rocchi in Juve-Roma assolutamente sbagliati, ma l'ha detto lui stesso, cioè voglio dire, di che stiamo parlando? L'ha detto lui stesso. Samuele Venezia, buongiorno. Buongiorno mister, grazie per la convocazione. Grazie intanto. A lei, dica. Io sono rimasto un po' avvilito o comunque sconsolato sentendo la vostra trasmissione oggi, e da come date per scontato che le società devono prendere le distanze dalle tifoserie organizzate. È una cosa proprio triste quella che state dicendo, perché se mi parlate di calcio romantico, non esiste memoria d'uomo in Europa, perché gli americani hanno proprio tutta un'altra cultura, ma in Europa non esiste un trionfo sportivo dove non sia affiancata una foto degli ultras che fanno festa. Non ma esiste. Perché? Sì. Ma perché? Non esiste. Ma perché? Ma dove sta scritto? A parte che noi abbiamo le foto degli ultras sullo sfondo di squadre che chiedono scusa, e voglio dire, noi ci siamo abituati a tutto, quindi va bene anche questo. Ma poi perché? E poi qui parliamo di un'altra cosa. Noi parliamo di quelli che di professione fanno il tifoso. No, c'è un equivoco. Cioè, secondo me la distanza non è una distanza emotiva, è una distanza che possiamo banalmente definire economica, che possiamo chiamare a distanza, possiamo usare una parola più corretta, che è quella di collusione tra le società e le tifoserie. In molti casi possiamo parlare di sistemi di malaffare nella gestione di biglietti, trasferte, ma sono tutte cose che conosciamo, non stiamo inventando proprio niente. Quindi la distanza è intesa in questo senso, non è intesa in senso emotivo o affettivo. Questo mi sembrava evidente fin dall'inizio. Beh, è vero che abbiamo vinto le due partite in casa e abbiamo perso le due partite al San Paolo. Dobbiamo mostrare che abbiamo migliorato anche con una rosa non completa, e anche con il fatto di giocare ogni tre giorni, che non era il caso l'anno scorso, anche se erano le coppe su due di queste partite. Sappiamo tutti in Italia, non solo a Roma, che andare al Napoli è una trasferta difficile, ma dopo siamo primi, vuol dire che abbiamo fatto almeno un inizio stagione corretto. Questa giornata significa, o abbiamo visto, la possibilità che tutti possano sbagliare. E questo credo che è l'aspetto positivo. Abbiamo visto una squadra forte come la Juve perdere questa partita, e sappiamo che noi con le squadre forti l'abbiamo fatto bene, e l'Inter, che è una delle altre squadre che possono puntare a qualcosa di importante quest'anno, credo che il secondo tempo l'abbiamo fatto molto meglio. Per questo io ho fiducia che la squadra può farlo bene, e ho fiducia che il campionato è ancora lungo. García Benitez di oggi, altro modo di vivere la partita a bordo campo, quello di Marco Cherubini, giornalista di Mediaset, e che domani affiancherà, no, non affiancherà Pardo, perché Pardo fa un'altra roba. Però... Sandro. Ciao. Buongiorno a tutti, un saluto agli ascoltatori. Ciao, tu cosa, lo chiedo anche a te, da anni segui la Roma da quel posto, cosa ti aspetti domani? Oh, non lo so nemmeno io, ti sono sincero. Io dico solo una cosa, ti dico quello che succede oggi. Oggi succede che la Roma, per andare a Napoli, poco più di 190 chilometri di distanza, deve prendere un aereo, perché il protocollo di sicurezza di un aeroporto è maggiore di quello di una stazione, e i colleghi di Roma TV, ex Roma Channel, che partono con la squadra, non sanno dove vanno a dormire stasera perché è top secret per ragioni di sicurezza. Questo dà secondo me un po' la cifra di un di una realtà che deve essere cambiata con la buona volontà di tutti, anche da parte nostra, da parte dei giocatori, dei protagonisti, perché non è pensabile che una partita di andata e di ritorno, perché poi questi saranno i problemi che speriamo di no, ma si potrebbero tranquillamente mutuare nella gara di ritorno per il Napoli, non devono far parte della vita quotidiana del nostro pallone. Detto questo, io mi auguro e spero che sia una bella partita, perché dal punto di vista tecnico sono due squadre fantastiche, giocano, certo. hanno sempre offerto, soprattutto l'anno scorso nelle quattro partite tra campionato e Coppa Italia, 90 minuti veramente entusiasmanti, quindi io spero che poi alla fine il buon senso di tutti e lo spettacolo riesca a far mettere alle spalle tutto questo. Sì, intanto quello che ci raccontavi erano immagini di una trasferta, cioè più facile andare a giocare, più semplice andare a giocare a Tel Aviv o a Kiev o in zone di guerra, che non è una trasferta a Kiev o a Tel Aviv, è una trasferta a Napoli. Ci fermiamo. Marco, stai con noi un attimo, abbiamo il traffico, uno degli appuntamenti preferiti di Pardo, poi torniamo subito. Tutti convocati. Giovanni Capuano, normali cronache da trasferta in sì, sì, ma guerra. Noi continuiamo a girare intorno alla questione. È la normalità, accadrà certamente anche il ritorno. A proposito di quello di cui parlavamo, i nostri club hanno fatto carte false per cancellare la tolleranza zero sulla discriminazione territoriale. Per carità, noi abbiamo perso il fiato per dire che quelle leggi fatte così erano troppo rigide, penalizzanti e quindi in qualche modo andavano modificate. Che cosa è successo? È dall'inizio dell'anno che tutte le sante domeniche dei club pagano chi 10, chi 15, chi 20, chi 30.000 euro di multa, perché quelle cose lì, dopo che sono state modificate le regole, proseguono e anzi sono aumentate, e nessuno dice più niente. Ai club va bene così, va bene pagare quei 20.000 euro, sono una tassa che pagano, non sono più così esposti come accadeva l'anno scorso, e la tolleranza zero l'abbiamo dimenticata, così come in sei mesi, ripeto, al di là delle nuove regole del governo, non si è fatto nulla dopo i fatti del 3 maggio. Pierluigi, torniamo invece al campo con Marco Cherubini. Sì, perché mi sembra la cosa sicuramente più interessante. E torniamo al campo, dai. Ma secondo te sarà davvero una partita divertente? È troppo importante per esserlo? Beh, è una partita, innanzitutto, al di là di tutto, bisognerà capire veramente che tipo di clima ci sarà, nel senso che poi c'è anche un aspetto ambientale, quindi questa è una cosa che va detta, cioè che esattamente come al ritorno, Toglie l'ambiente dal punto di vista se toglie l'ambiente, è una partita equilibratissima fra due squadre che hanno la Roma fin qui ha dimostrato di essere più solida, il Napoli ha una potenza offensiva eccezionale, forse addirittura superiore a quella della Roma. La Roma ha molto più equilibrio, è molto più compiuta come squadra, sicuramente gli errori difensivi che abbiamo visto fare dalla difesa del Napoli, che vediamo fare purtroppo per il Napoli da un anno e mezzo senza soluzione di continuità, sono errori clamorosi e madornali. La Roma sono tre anni che vende il miglior difensore, due anni che vende il miglior difensore che ha, e riesce però a ricostruire un eccezionale modello difensivo, prendendo l'anno scorso Benatia e quest'anno Manolas. Certo. E anche quando non c'è Manolas, che ha giocato Yang Ambiwa, mi sembra che abbia fatto molto bene. Sì, intanto c'è Castan che è fuori da un sacco di tempo, ci sono state anche mille voci su di lui. Anche quello posso dire, anche quella è una cosa molto, molto triste, nel senso che si debba arrivare a un comunicato da parte di un calciatore al quale auguriamo evidentemente ogni bene, un calciatore che Marco lo potrà confermare, si è preso uno spavento come tutti quelli che hanno sofferto di vertigini in maniera improvvisa e dicono che roba è, ecco, e pensi sempre al peggio. Io ci sono passato nel 2006, si è preso un bello spavento, poi ha avuto tutta una serie di problemi legati appunto alle difese immunitarie che si sono abbassate, però ieri è arrivato a dover fare un comunicato per smentire la voce terribile che avesse un tumore, ecco, quindi di questo stiamo parlando, no? Anche di come certe certe voci sotterranee poi deflagrano e arrivano al punto che si debba arrivare a una presa di posizione di questo tipo. Marco, Garcia però è un fatto, domani deve fare la conta degli ultimi difensori disponibili, no? Esatto, l'aspetto particolare è proprio questo, lui l'ha detto anche in conferenza stampa, è una trasferta difficile, poi certo bisogna vedere chi avrò a disposizione e quanto sarà stanca la squadra, perché le due cose sono direttamente proporzionali. Lui quest'anno ha una rosa non paragonabile a quella dell'anno scorso, nel senso tanta qualità in più, tanti cambi, però gli infortuni, soprattutto concentrati nello stesso settore, hanno fatto sì che tanti giocatori poi arrivassero stanchi, e nel particolare oggi pomeriggio sta per cominciare adesso l'allenamento, occhi puntati proprio su Manolas, perché ha preso un colpo al ginocchio con il Cesena ed è al momento è a rischio. Se non dovesse farcela deve arretrare De Rossi e recuperare Keita, tutte notizie non buone, pensando che comunque mercoledì devi andare a Monaco di Baviera almeno a fare una partita per salvare un po' la faccia, quindi lo stress, diciamo così, anche psicofisico della squadra c'è, e questo potrebbe essere il tallone d'Achille di questa Roma in questo momento. Senti, ma la trasferta di Monaco pesa, o la Roma ha questo vantaggio che è una grandissima amichevole, forse ininfluente, a differenza invece ad esempio della Juventus che martedì si gioca un pezzo importante di Coppa? La classifica parla chiaro, cioè paradossalmente l'ultimo turno di Champions ha fatto molto effetto, il 7-1 ovviamente, però poi se guardi la classifica e ragioni con freddezza è la partita, certo. Poi l'unica cosa che può variare Pierluigi, però anche in CSKA Mosca a Roma, perché insomma comunque il 25 di novembre la Roma deve andare a vincere lì perché deve blindare una situazione classica, però paradossalmente è anche una seconda sconfitta a Monaco di Baviera non sarebbe una tragedia dal punto di vista della qualificazione. No, però dipende anche dal modo, cioè un'umiliazione potrebbe invece pesare, dipende dal modo. Grazie Marco. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, al volo la schedina, sai che ti tocca, Pardo? Eccoci qua. Pardo, il capoanno. Vediamo se fa più di 4, 5. Napoli-Roma. Napoli-Roma 1. Giovanni? Pari, 1-1 finisce. Empoli-Juventus. 2. 2 fisso. Parma-Inter. Parma-Inter. Secondo me finisce 1-1. Parma-Inter X. No, ne dite uno diverso o no? Chievo-Sassuolo. Abbiamo tutto diverso. Chievo-Sassuolo X. X pure per me. Sampdoria-Fiorentina bella Sampdoria-Fiorentina. Sampdoria X. Io dico 1. Sempre domenica alle 15 Torino-Atalanta. Torino-Atalanta 1. Pari. Domenica alle 15 Udinese-Genoa. Altra bellissima partita. Udinese-Genoa over. Posso fare over? Sì. Allora Chievo-Sassuolo però è under. Lui dice over, io dico 1 e di Chievo-Sassuolo dico 2. Domenica sera 20:45 Milan-Palermo 1. Beh, Milan-Palermo 1-1, poi vediamo chi è che gioca davanti. Chi è che gioca davanti? Dove? Nel Milan, cioè quale Milan ma gioca? Come si fa a sapere da qua domenica? Su quelle di lunedì Cesena, Verona, Lazio, Cagliari. Under e Lazio, Cagliari over. Abbiamo calcio tutti i giorni fino a settimana prossima. Ciao, no? Pier. Che figata. Ciao, baci. Prima del GR, la schedina, una delle mie rubriche preferite. Grazie al sito della Gazzetta, la schedina questa settimana è di Gianmarco Pozzecco. Siamo arrivati al momento della schedina. Il tuo idolo Zeman ha fatto 4 su 10. Vediamo se lo superi e quindi gli lanciamo questa sfida. Cesena-Verona. Cesena-Verona 1. Chievo-Sassuolo. Acerbis 2. Empoli-Juventus 2. Lazio-Cagliari 1 del mio amico Pioli. Milan-Palermo. Beh, 1 di Inzaghi netto. Napoli-Roma. Napoli-Roma 2 perché devo fare il tifo per la Roma. Parma-Inter. Parma-Inter Iggs. Sampdoria-Fiorentina. Voglio vedere cosa dice quel pazzo di Ferrero. 1. Torino-Atalanta. Vince il Torino. Udinese-Genoa X. adesso ci vuoi far credere che stavate parlando se da mister è meglio se vi davano del lei oppure no. Sì, per ben due minuti riuscimmo a parlare di calcio, poi ecco, passò una stragnocca e chiaramente la professione vera sua e mia è stata per anni quella nostra. Io avessi una moglie e mia moglie osasse mettere becco a favore mio su un argomento qualsiasi, io la butto da quinto piano. Da oggi silenzio stampa. Non dice più niente altro. Da oggi silenzio stampa. Sei l'unico che mi ha regalato questa cosa e sono molto contento. Guarda, guarda questo bau bau. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Beh. Ciao Ilaria, un po' che la palla a Matano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili, cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita, forza Sampdoria. Ne la faccio più. Come la va? È la guardia questa? No, siamo venuti a portarle questo bel tapirino a Sor Ferrero, come la va? Beh, sono molto felice di questo. Sa perché glielo portiamo? Ma chi se ne frega, lo regalo mio figlio Rocco. Ma poco chi se ne frega? Rocco sono molto felice di questo. Non ho dubbio. Come stai, Sor Ferrero? Bene, grazie. Bene. Sei invertivo, Vieni meglio. Anche lei è un bello metto. Io sono anziano. Non dica così, non si butti giù in questo modo. Taffelli. Ma questa frase. Ma quale frase? L'ha detto Amorati. Io? Filippino. Ma io credo che tu hai sbagliato persona. Non ero io. Come l'altro? Ma quale altro? L'altro. Ma come mai ha detto così? Io sono il presidente della Sampdoria. Appunto. Era l'altro che ha detto questa frase. Quale altro? L'altro Ferrero? E certo. Chi sarebbe? Quello fa il cinema. Come mai è venuta questa uscita? Ma non capisco, io non volevo essere per niente offensivo. Ah. È un po' di romanità, è scappata. È venuta fuori così? Sì, non volevo essere offensivo con nessuno, pensa mai col signor Toir. Anzi, l'hanno attaccato del brutto, poverino. Ma lui non è filippino, lo sa, vedano. Ma l'ho saputo in televisione. Lo sapeva prima, è indonesiano. Vabbè, è sempre un signore del calcio italiano. No? Sembrava un'altra cosa, stava dicendo, sembrava. No, no, lei ha detto anche che il signor Agnelli ha detto cose peggiori nei confronti dell'Inter, però alla fine della fiera nessuno se l'è fidato. E ha detto come? Io dico una ma non cosa... ce l'avevo con lui, ce l'avevo con mio amico Mario, che è un edicolante di testaccio, cioè? Che vende i giornali pure lui. Potrebbe essere una bella idea. E avere questo. Ma lei sta facendo la corte alla sorella d'amico, perché abbiamo visto quella frase, io ho andiamo Ostia Lido. No, no, questa è una cosa che Buffo si sta arrabbiando davvero. Ma quello sì, delle entrate pazzesche, quello stia attento. Visto quanto è grosso. È grosso ed è geloso. Sì, però posso dire a Buffo, ti è stata stretta, Buffo. Perché si sa mai, con quell'occhio da volpino, non si sa mai. Qui siamo tutti bulldozer da volpino. Non ho più parole. Abbiamo scoperto stampa, due giorni. Abbiamo scoperto. Fate risate, li vedete tutti seri. Caro Capuano, che Zelig Ferrero ha anche problemi di sdoppiamento della personalità. Sì, ce ne sono due. Ce ne sono due, esatto. Sì, c'è quello che fa il cinema e c'è il presidente da Sampdoria. Ha avuto un lapsus freudiano, ha detto, no? Però l'unica verità è quella che ha detto Sinisa Mihajlović, il suo, come lo chiama lui? Mihajlović. Bisogna chiedere Andro Milacic. Comunque l'allenatore della Sampdoria ha detto questo. Non c'è Mihajlović. No, sembra, pensavo, avevo capito, avevamo Mihajlović. No, no, niente. Abbiamo uno sdoppiamento della personalità. Abbiamo uno sdoppiamento della personalità dietro il vetro. Ah, niente, solo Piantanida che mi aveva detto la risposta. Ma non abbiamo il fratello. Non era Piantanida, era l'altro Piantanida. Era il sì, era l'altro. Comunque Mihajlović adesso sul serio in conferenza stampa ha detto che il presidente non si commenta, si ascolta. Sì, parla come Galliani quando dice il presidente non si commenta. A proposito di commenti, non so se hai sentito Enzo Iacchetti che manca, ha detto Toir deve imparare l'italiano. Poi mi sta un po' antipatico perché mi ha tolto la tessera omaggio e da quest'anno non vado più a San Siro. Il che ha aperto un velo, anche ha squarciato un velo su perché Toir sta sulle palle a metà del mondo interista. Ha tolto un sacco di tessere. Tutti gli abbonamenti omaggio. Tutti. No, non pago. Stanno a casa. E difatti San Siro è mezzo vuoto. Però ho detto, normalmente se uno va a vedere uno spettacolo, normale che paghi. Bisogna spiegargli che da queste parti spesso non è così. Andrea da Treviso, buongiorno. Buongiorno mister, grazie per la convocazione. Grazie a te. Allora, io volevo dire due cose. La prima è che io sono interista e... Paghi però... o no il biglietto? O hai la tessera omaggio? No, la verità, non vado molto spesso allo stadio per vari motivi, sono anche un po' fuori mano, per la verità. Però devo dire una cosa, dite sempre che giustamente Mazzarri è un po' troppo criticato anche per la stagione che sta facendo, per come vanno le cose, tutto sommato non ha così pochi punti in classifica. Prima però avete fatto le schedine, tutti quanti avete messo X streaming pita con il Parma. Io no, allora, io non l'ho detto, io non l'ho detto, secondo me è due, vince l'Inter. Io dico che vince l'Inter. Vabbè, ma non è che a Parma si passeggia, cioè a Parma contro una squadra ultima in classifica con l'acqua alla gola, ma con valori che non sono da ultima in classifica, io non credo che sia una passeggiata di salute per tutti. Tra l'altro Mazzarri ha anche qualche problemino di formazione, eh? Sì, anche Donadoni ce li ha dall'inizio i problemini di formazione, ma soprattutto è un derby, caro Andrea, tra due degli allenatori i due allenatori più criticati d'Italia. Uno perché in difficoltà oggettiva ed è Donadoni, l'altro per ragioni soggettive. Questo è chiaro, poi tutte le partite sono difficili. Comunque insomma, credo che in generale la fiducia a Mazzarri all'Inter non sia così piena da parte di nessuno. Ma vabbè. E la seconda cosa che volevo dire molto brevemente è che sinceramente, da magari non sono un grandissimo tifoso, uno che va allo stadio ogni domenica appunto, però sinceramente queste cose, le partite scortate, le squadre che devono girare con la scorta, questa cosa veramente mi fa schifo, mi fa pensare a tutto fuorché allo sport. È una cosa che va debellata, va eliminata, perché così sinceramente non si può andare avanti, ecco. Questo non resta che sottoscrivere in calce tutti noi quanti. Andiamo avanti. Sotto la curva. C'è un altro. Aspetta. In area, fermato, ma è pronto ancora Tassotti, cerca spazio per il cross, c'è Stoica su di lui, va ottimamente Tassotti, ecco il suo traversone, Van Basten, gol di Van Basten, stupenda questa azione del Milan con Marco Van Basten, che porta al raddoppio il Milan al 27esimo. Straordinaria azione dei rossoneri con cross di Tassotti e gol di Marco Van Basten, 2-0 per il Milan. Van Basten gol, appena cominciato da 50 secondi il secondo tempo, Marco Van Basten segna il quarto gol per il Milan sullo Steaua. Van Basten, la notizia è corta. Semplicemente ho deciso di smettere di fare il calciatore, tutto lì. Cosa ti mancherà di questo ambiente? Proprio gli allenamenti a Milanello mi piacevo tanto, poi andare in giro con i giocatori è stato divertente, poi è stata una bella vita. Mi viene la voglia di piangere quando si tratta di un giocatore come lui che non può giocare più. Tutto il giocatore più elegante che ho visto in vita mia. Se Dio non l'ha fatto giocare più, sarà perché non vuole che ci siano più gol di bene. Io sto diventando un po' vecchio, ma sentire i due giocatori che forse ho amato di più personalmente e ricordare quei momenti e festeggiare i 50 anni di Marco Van Basten, ma soprattutto i 20 rotti anni dall'ultimo suo gol. Filippo Galli, aiutami tu, ti prego. Ciao, no, ciao. Qui è qualcun altro con gli occhi lucidi, sono sincero, poi avete messo questa musica. Ma hai sentito Maradona, quelle parole di Maradona, sì, che ovviamente sono dire. Ho sentito Maradona, sì. Senti, com'era giocare con un genio del calcio? Beh, giocarlo, allenarsi, frequentarlo è stata un'esperienza bellissima. Un giocatore straordinario, sapeva fare tutto nonostante appunto la sua, anche la sua altezza, la sua struttura fisica, aveva delle doti tecniche anche nel breve uniche, direi. Che altro aggiungere? Quando si parla di Marco Van Basten si rischia sempre di dire tante banalità. Però quella era la cosa più impressionante, tu l'avrai marcato in allenamento, eri, no, sì, eri dall'altra parte. Mi ha anche causato un incidente importante, uno dei tanti della mia carriera, quando marcandolo in maniera abbastanza così aggressiva, poi per reazione mi spaccò un ginocchio facendomi uscire un legamento, però nonostante questo siamo rimasti molto legati, ecco, per dirti. Quindi sì. No, era, c'è un rapporto ancora adesso bellissimo con Marco, anche se non è di tante parole, no? Mai stato in tante ma è una persona, sensibilissima, credo che lo dimostri anche, lo dimostrano alcune scelte che lui ha fatto poi nella carriera dopo il calcio giocato. Oggi sarebbe ancora il migliore. Oggi c'era sulla Gazzetta un interessante articolo che diceva: ma lui guadagnava 5 miliardi di lire, di allora arrivò fino a 10, 5 milioni di oggi, oggi sarebbero scherzi. Beh, se oggi il Milan dovesse metterlo sul mercato, quanto varrebbe, quanto potrebbe chiedere? No, tanto l'ha preso per nulla, te lo ricordo. Sì, l'ho preso per nulla, fu una di quelle grandissime operazioni, quelle veramente grandissime operazioni di mercato. Quanto varrebbe oggi? Non tanto in termini economici, Sarebbe ancora non lo so, potrebbe valere come Cristiano Ronaldo, così il primo nome che mi viene in mente. Sarebbe, ma io sai, è sempre difficile fare paragoni a distanza di tempo, il calcio cambia, e a me piace ricordare Van Basten in quegli anni in cui tra l'altro qui in Italia c'erano campioni straordinari, l'avete detto, voi l'avete fatto sentire, Diego Maradona, Zico, ogni domenica andavi italiani, allo stadio qualunque fosse, bravo, sì, qualunque fosse sì, l'avversario, sì. Comunque almeno un paio di fenomeni ce li aveva. Sì, sì, assolutamente, quindi era il momento top del calcio, che adesso non c'è più, e dobbiamo tutti insomma rimboccarci le maniche per riportare il nostro amato sport in alto da qualche parte. Phil, ascolta, lui e Gulli sono stati però due giocatori rivoluzionari, cioè due giocatori così potenti, così fisicamente devastanti, e con quei piedi non, da queste parti non si erano, ma forse non si erano mai visti nel calcio mondiale, cioè sono stati davvero l'inizio di una nuova specie di giocatore. Sì, ma lui, Gulli, lo stesso Rijkaard l'anno successivo, giocatori che univano, ripeto, una struttura imponente, straordinaria, quindi doti fisiche con una tecnica che non era propria di quel tipo di fisicità, ecco, solitamente, no? Lo stesso Maradona, Zico, avevano un'altezza innanzitutto molto inferiore, yes. E una struttura molto inferiore, ma loro invece avevano una capacità, una destrezza, una coordinazione che poi gli permettevano di essere anche tecnicamente davvero sopra la media, ecco, diciamo, per dire un eufemismo. Sì. Togliami una curiosità: quando arrivò, era stato capitano a 21 anni, capitano dell'Ajax, aveva appena vinto, se non ricordo male, una Coppa delle Coppe segnando 1-0 gol di testa. Quanto ci avete messo a capire che era davvero di un altro pianeta? Ci è voluto un po', perché lui all'inizio non poteva giocare, era arrivato un infortunio, era infortunato. È chiaro che poi durante i primi allenamenti si capì subito quali erano le sue qualità, e poi lo dimostrò in campo quando esordì, se non sbaglio, con l'Empoli in casa, sì. Ma non vorrei dire una stupidaggine. Beh, un giocatore che non so, veramente mi è difficile parlarne, a volte parlare di giocatori così grandi. Si rimane senza parole, no? si rischia di non descriverlo a sufficienza in tutta la sua Tra l'altro allora non c'era neanche la TV, quindi non è come adesso che qualunque straniero qualunque straniero arriva più o meno lo conosci, sì. Poi ti può anche stupire. Io ricordo le parole ad esempio di Ancelotti dopo il primo allenamento di Pato, però Pato era un bambino quando è arrivato al Milan, quindi era dal punto di vista televisivo poco conosciuto. Allora Gullit e Van Basten, che evidentemente gli addetti ai lavori conoscevano bene, in realtà ebbero un impatto molto forte, anche perché nessuno se li immaginava così. Ma nel privato di Milanello, che cosa vi raccontava dei difensori che lo marcavano, perché quelli sì che erano difensori, eh? Beh, lì insomma anche in quegli anni adesso si può dire, sono passati 25 anni, prescritto. No, beh, no. È tutto in prescrizione. Insomma c'erano marcature sicuramente più attente, più ma di Vierco, di Bruno, lì, cosa diceva? Appunto, c'erano anche lì meno televisione, quindi c'era meno, se vogliamo, meno moviola e meno venivano enfatizzati un po' meno certi trattamenti. Lo picchiavano lui, più di Ronaldo oggi? Assolutamente, però lui è... ma non si è mai permesso di dare giudizi sgradevoli, diciamo così, no, Massimo, di avversari. Un balletto, lui, un balletto lui, addosso a Pasquale, sì, Bruno, quello su Bruno Torino, sì, ma lui era così, insomma, era a volte anche nelle sue manifestazioni così più strane, era, dimostrava tutta la sua purezza, insomma, non era, sì, davvero, non era una persona per nulla cattiva, per nulla così maliziosa, ecco Marco. Un'ultima cosa sulla cronaca, Phil. Come vanno le cose, sì, in Milan? Il tuo Milan, che è quello del settore giovanile, e quello di Inzaghi? Beh, quello di Inzaghi mi sembra bene, siamo al terzo posto, in coabitazione con la Lazio, ci sono tante squadre vicine, però insomma non dimentichiamo da dove partiva Pippo. Io credo che stia facendo un ottimo lavoro, diamogli tempo, dobbiamo avere tutti pazienza. Per quanto riguarda il settore giovanile, sono contento, stiamo facendo secondo me un lavoro importante di prospettiva, un po' rivoluzionario forse per i settori giovanili, insomma, in cui credo molto, in cui la società ci sta appoggiando, speriamo di ottenere risultati a breve. Un'ultima cosa, visto che siamo amici, te lo posso chiedere, non pensi sia il caso di proteggere un po' dall'attenzione mediatica Mastura? No, così tu me lo dici che sei un giornalista. No, appunto, no, voglio vedere come la pensi. Ma ormai non si riesce, questa è... Non ci riesci? Non ci si riesce, no, ma non ci si riesce a fermare. Non se ne parla troppo, no? Secondo te, te lo dico da... Sì, no, contribuiscono un po' tutti, ma io devo dire che lui, anche in queste uscite che ha fatto con noi, queste due uscite, ha dimostrato di essere cresciuto, di aver capito che conta la sostanza. Conta l'impegno, conta il farsi voler bene dai propri compagni, e quindi la dedizione anche a quelle che magari non sono le sue prerogative, no? Quella di andare, come ha detto Mr. Brocchi, a rincorrere l'avversario, a reagire alla palla persa, perché insomma lui prova sempre giocate importanti ed è chiaro che magari possa qualche volta perdere qualche palla in più rispetto ai compagni, proprio perché gioca sempre, non dico sul difficile, ma sul rischio, ecco, esatto, che è completamente diverso, è quello che un po' gli chiediamo noi, quindi giocare nel traffico, quando è nelle zone di campo dove è più difficile giocare, no? E non andare solo per vie perimetrali. Quindi va bene così, è un momento secondo me di crescita, è un momento positivo, lasciamolo vivere con calma e continuiamo a monitorarne la crescita. Insomma, lui adesso ormai fa parte della prima squadra, viene con noi attualmente, ma direi che la società sta facendo, e tipo stanno facendo tutto per farlo arrivare, sì, insomma, al momento giusto e poter raccogliere i frutti fino in fondo. Tu li vedi avversario, come sono Puskas e Bonazzoli, che ne ha parlato anche oggi Mazzarri, sono i due attaccanti dell'Inter che a livello primavera sembra che facciano un altro sport, credo abbia fatto 20 gol in 10 partite. No, non è vero che fanno un altro sport. Come sono? Sono due buoni giocatori, sono Bonazzoli, mi piace in particolare, forse hanno più struttura fisica Puskas, e tra l'altro quando c'è Bonazzoli lui è costretto a giocare esterno a sinistra, che non è esattamente il suo ruolo, però giocatori che hanno il calcio dentro, e a me piace in particolare Bonazzoli. Ma sono pronti o no per il calcio dei grandi? Perché poi questa è la domanda che si fanno in tanti. Ci vuole sempre tanto coraggio, e poi non c'è mai pazienza qua in Italia, e la pazienza non ce l'ha nessuno. Quindi non fate a me queste domande, fate a coloro che si occupano di quei giovani. Già noi abbiamo i problemi con i nostri. Grazie Phil. Concedetemi la battuta. Ciao e auguri, ciao Filippo. Marco. Ciao Filippo. Ciao, buon lavoro. Ciao. Il Milan di Van Basten sa che riesce a perdere col Brescia. vero Beppe, ricordo anche quello, però ricordo anche Bolt perde le finali dei 100 metri senza partire. Il cigno era senti questo, Luca da Forlì, il cigno era la poesia in movimento come il gancio cero di Kareem Abdul-Jabbar. Sì, ma lui ha segnato evidentemente un'epoca, e secondo me è anche stato fortunato dover smettere, diciamo, prima di invecchiare, no, sai com'è, no? Giovanni, i miti, 20, i ha miti, giocato l'ultima partita 29, abbiamo continuato, poteva anche insieme andare avanti, però i miti poi restano nella memoria anche per quello, no? Perché restano eternamente belli, non rovinano, non si sporcano, non sei costretto poi a seguirli nella parabola discendente della loro carriera. Sì. Pensa se Maradona si fosse ritirato dopo i mondiali dell'86, avresti perso qualcosa, per carità, ma sarebbe rimasto immortale. Filippo, provincia di Varese, dopo? A dopo, Filippo, provincia di Varese, Franco da Chieti, devo salutare Giovanni Capuano, ci vediamo domenica. Domenica, perché domenica cambiano un po' di cose. Cambiano un po' di cose, però a romperti le scatole, qui la domenica dalle 5 alle 7. Darò parecchio fastidio, preparati. Speriamo di no. Ciao Giovanni. Ciao, a domenica. Tutti convocati. Ricordo i miei messaggi. Cavolo, avete appena paragonato Van Basten a Jim Morrison. Anche lui ha smesso prima di invecchiare, scrive Riccardo. Sì, non solo Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Se vogliamo restare in campo musicale, possiamo fare un sacco di nomi di questo tipo. Ma vabbè. Filippo, provincia di Varese, buongiorno. Grazie. Sì, buongiorno. Buongiorno Mister Carlo, grazie per la convocazione. Niente, io volevo parlare dei tifosi, anche se dopo aver sentito Filippo Galli è sempre un piacere, parlare di cose spiacevoli non è per niente carino. Comunque vabbè, in sostanza, in sintesi, le società credo debbano fare una scelta. Far andare allo stadio persone di un certo tipo, tipo non altolocate, normali che vanno lì per vedere la partita, oppure teppisti. E per teppisti non intendo tutti i tifosi, tutti sanno che sono quelli che tengono sotto il casco le società. Ma il fatto è che tutto è noto, no? Sì. Ci sono poche zone d'ombra, sappiamo chi tiene in mano le curve, sappiamo nomi, cognomi, sappiamo quello che fanno, sappiamo come avvengono certi scambi e certi affari, eccetera. La scelta è che appunto noi come famiglia, perché noi siamo sempre andati a San Siro, noi siamo tifosi del Milan, abbiamo deciso di non andare più a San Siro. Per noi era una festa, mangiare la salamella, insomma, stare insieme agli amici, parlare, ridere, arrabbiarsi, perché si perde, è finita la festa, basta, si sta a casa e si vede. Sì, per... in tutta onestà Filippo, lei quando ha iniziato ad andare allo stadio e quando ha deciso di smettere? Io ho deciso di smettere quando il Milan ha preso Lentini. Quindi qualche anno fa. Poi sono andato sporadicamente, ma prima ero abbonato, insomma, sì. Era anche un... Non so, può essere, possiamo, visto che siamo un po' romantici, possiamo dire una questione di età, magari di scelte, sì, magari si decide di fare qualcosa di diverso. No, ma questo per dire, sto scherzando, questo per dire che certe cose le abbiamo sempre viste, cioè quando mi dicono... mi parlano la violenza nel calcio, eccetera, non è un fenomeno di oggi. Però il rapporto tra società e ultra si è evoluto in maniera perversa, e questo è vero. Però io ricordo anni, ho una certa età, ricordo negli anni 70, 80, 90 andare allo stadio era molto più pericoloso per l'incolumità fisica di quanto non sia oggi. Oggi è diventata una cosa insostenibile per le strutture, le difficoltà che ci sono nel tessere il tifoso, farsi schedare, trovare i biglietti, entrare allo stadio, è tutto di una scomodità enorme, con costi enormi e insopportabili, eccetera eccetera. Però se siamo onesti, non possiamo dire che in quegli anni andare allo stadio fosse una scampagnata, fosse qualcosa da far fare a cuor leggero al proprio figlio, perché non è così. È un enorme falso storico pensare a questo. Franco Chieti, buongiorno. Buongiorno, volevo un po' continuare su questa falsariga. La trasmissione che state facendo oggi penso che sia quella giusta. Parlare del calcio di Van Basten, parlare del calcio di Maradona, parlare della tripletta dell'Inter, del Platini, perché penso che il calcio che stiamo a vivere oggi non offre niente. Porto due esempi molto molto brevi. Io sabato scorso ho visto Real Madrid-Barcellona. Chiaramente dopo aver visto quella partita non potevo vedere Sampdoria-Roma, anche se sono un simpatizzante della Roma, ma neanche se ci fosse stato Juventus-Inter, Juventus-Milan, che sono due spettacoli imparagonabili. Sì. Il secondo esempio, Manchester United Chelsea, il giocatore del Manchester che finisce in mezzo alla curva dei tifosi del Chelsea, che tranquillamente lo alzano, lo riportano in campo. Il commentatore Sky dice: vorrei proprio immaginare cosa poteva succedere a un giocatore della Roma se fosse andato a finire in mezzo ai tifosi juventini o viceversa, e ci mancherebbe altro. Questo per me fa sì che a livello di club e a livello di nazionale, se non passano 20 anni di cultura calcistica, noi saremo sempre degli emarginati. Sì, sono tristi verità, ma per quanto riguarda un episodio di quel tipo, io credo sarebbe successa esattamente la stessa cosa. Adesso non esageriamo, lei pensa veramente che l'avrebbero ammazzato di botte? Io no, avrebbero fatto più o meno quello che hanno fatto i tifosi inglesi. Che poi ci sia una differenza colossale tra l'andare a vedere una partita qui e l'andare a vedere una partita là, viverla qui e viverla là, sono tutte cose che abbiamo detto moltissime volte, e credo che quel gap non sia tanto temporale, 20 anni che lei fa riferimento, sia un gap che sta nella nostra testa, nella nostra cultura, nel nostro modo di vivere, ma non solo lo sport. Breaking like a rival who was making his way to the cities of Mexico. Living in a apartment out on Avenue A, out of town, a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. The world won't wait, so I bet she left me right out there through the door. Io sono qui a Radio 24, Matteo Caccia dov'è? Quanto buongiorno. Io sono qui, Radio 24, e lei dov'è? Guarda, in questo momento sono sdraiato sul letto nella mia stanza d'albergo per preservare le forze per la maratona di domenica. Sono a New York in questo momento. Non ti vergogni? Come? Non ti vergogni? Mi lasci qui e vai a New York a fare la maratona? No. Guarda, un po' sì e un po' no, nel senso che quando ho cominciato a pensare di farla, e il tutto risale a brevissimo tempo fa, per uno che decide di fare 42 km e 195 metri, era metà giugno e dicevo vabbè, non ce la farò mai. Invece adesso sono qui e c'è anche un po' di eccitazione in giro nell'aria, a parte che per le strade c'è solo gente vestita elegante ma con le scarpette da corsa, perché probabilmente le prepara e le ammorbidisce per domenica. Senti, ma come ti è venuta sta fissa? Hai avuto troppe frequentazioni con Cruciani? No, guarda, è nata in un altro modo. È nata perché durante Voi siete qui, il programma che sarà in onda tra poco, dopo di te ovviamente in versione evidentemente registrata, altrimenti non potrei essere qui. Sì. Ho raccontato la storia di una persona che non parlava di corsa, ma che si occupa di corsa nella vita, che si chiama Marco Rocca di Brooks, fanno scarpe da corsa, e lui mi ha detto: dai, perché non proviamo a fare una roba insieme e tu trovi un modo per raccontarla? Ed eccoci qua. Quindi in realtà è grazie a Brooks che sono qua, e grazie a loro soprattutto che mi sono allenato per 3 mesi con vari crampi e crisi di fame, durante le quali ho capito che portarsi dietro un paninetto dopo i 15 chilometri può essere una buona idea. Beh, Matteo, tu lo sai, oggi abbiamo parlato di Van Basten, insomma, mi sento un po' romantico, anche un po' anziano, e ti devo dire la verità, per me questo periodo dell'anno è davvero Halloween, le castagne, l'inizio del campionato NBA e la maratona di New York, quindi ti invidio da morire. Guarda, devo dire che farò di tutto per parlare male dell'Inter. Per una volta, è incredibile, per una volta mi chiami per non parlare male dell'Inter. Guarda, è incredibile, perché ovunque tu entri nei locali, nei bar, a prendere panino, se hai con te qualcosa che ti identifica. Ieri ad esempio abbiamo ritirato i pettorali, no? Si ritirano tutti nello stesso posto, in un pier verso lungo l'Hudson. tornando indietro, avevamo questa borsa dove c'è dentro il pettorale trasparente, perché per motivi di sicurezza poi tu la devi dare con dentro gli oggetti che vuoi che ti riportino all'arrivo. E quindi la gente si accorgeva che era gente che noi eravamo persone che avrebbero fatto la maratona, e dappertutto tutti ci dicevano: "You run the marathon, great, good luck, have a great Sunday." C'è una sorta di "siamo tutti fighi, siamo tutti con voi", che è abbastanza inusuale, soprattutto, cioè abbastanza inusuale per l'Italia, insomma, che quando ti capita di fare una cosa anche piccola di sport non c'è tutto questo sostegno umano, questa partecipazione emotiva. Altro che sì, Icardi, altro che Palacio, altro che San Siro, caro Matteo. Prima di lasciarti andare a riposare, perché non ti voglio stancare più di tanto, che numero sei, giusto per i nostri amici telespettatori che guarderanno la maratona? Matteo Caccia sarà il numero? Guarda, sono il numero, se vuoi segnartelo, tra l'altro, se ti scarichi, visto che so che tu lo farai sicuramente, Carlo, sì, certo, credici, se ti scarichi la app della maratona di New York e digiti o il mio nome o il mio numero, che è 69937, 69937, sì. Tu puoi seguirmi durante tutto il tracciato, pensa che culo, mamma mia. Proprio. Ma lo faccio di sicuro, scherzo. Poi, tra l'altro, 5 ore e mezza probabili che farò. Puoi seguirmi per tutte. Guarda, caschi male, perché poi proprio domenica torno in studio con Giovanni Capuano per tutti i convocati alle 17, alle 19, quindi non c'è occasione migliore per sputtanarti, quindi lo faccio di sicuro, credici. Ciao, sì, io parto proprio alle 17, io parto alle 11, la mia onda parte alle 11, da sono più o meno le 17 ore italiane, cioè 11, 12, 13, 15, 17, esattamente, sono le 17, meraviglioso, potete seguirmi in diretta. Lo faremo, ciao Matteo. Ciao, un abbraccio. Ciao Carlo. Ciao. Ciao, bocca al lupo. Vabbè, mi devo riprendere un attimo. Tutti convocati. Quindi Allegri faceva giocare uno al posto tuo che non meritava quanto te? Non dico che non meritassero gli altri, io sto dicendo che secondo me tante partite sono state fatte giocare giocatori che non giocavano in quel ruolo lì, sono stati messi apposta lì. Lì non c'era nessun tipo di prevenzione né di pregiudizio, lì c'era una valutazione di natura tecnica. Sa benissimo Franco Ordine che quando era al Milan, mi dica lui se le partite che ho giocato le ho giocate peggio degli altri, non mi sembra proprio il caso di dire una cosa del genere. No, quindi... io sono contrario agli interventi delle mogli dei giocatori. Vabbè, ma lei è sposato? Sì, come no. Pure Franco Ordine è riuscito. Se lei fosse stato in un momento del cavolo nella sua carriera, molto probabilmente mia moglie faceva un tweet a Feltri per dire: "Ah, come mai?" Ma quindi abbiamo dei problemi con Feltri. Attenzione, c'è notizia, subito l'altro. Non andiamo d'accordo neanche con Franco Ordine, no. Non c'è problema. Antonini, tu ti devi mettere in testa una cosa semplicissima, che non è la fine del mondo. E cioè che non c'era nessun motivo particolare, antipatia. Ma la fine del mondo, guarda, infatti guardi il mio mondo dove è andato a finire, a Genova, no, io sto benissimo qui. No, ma voglio dire, non c'era da parte di Allegri nessun tipo di prevenzione o di pregiudizio. Ma non ho detto questo io. Io avessi una moglie, lo dico con molto rispetto per Antonini, ma con molta amicizia per Antonini, e mia moglie osasse mettere becco a favore mio su un argomento qualsiasi, io la butto dal quinto piano. Anche questo fa spettacolo ieri sera a Tiki Taka, cioè Ordine e Antonini che questionano, no, su, beh, avete sentito la storia, la conoscete, sapete tutto quanto, e poi interviene il professor Mughini e in punta di penna dice: "Io la butto dal quinto piano." Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Gian Pier, mi sa che l'hai detta. Fabrizio, provincia di Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno. Anche lei la butta dal quinto piano, la moglie? Ce ne sarà, no, la moglie no, magari la mangio. perché poi cominciano a rompere, no? E la storia inizia che ma no, non ti rompo le scatole, poi cominciano, però sei con la moglie a sabato, la domenica, e non certo, mi chiami, quindi, certo, e quindi alla certo. fine uno butta giù il, la mano, il problema è che, no? Poi, che poi magari l'amante fa il tweet e allora sì. poi diventa un problema, eh. No, no, no, io non lo so, è obbligato. Dimmi, Fabrizio. Volevo dire due cose. Sì. Allora, la prima, forse ne avete già parlato un po', solo che poi stavo gonfiando le gomme della macchina, ho perso qualcosa. E volevo chiedere come mai le società continuano, o società o chi per esse, no? Continuano a prenderci in giro con questa tessera del tifoso quando una persona come me, vabbè, io la faccio anche, non è un problema, 15 euro mi dura 10 anni, però le fotografie non è... No, a me dà fastidio invece. Ecco, ma ecco, il problema è che, appunto, è questo qua. Allora, chiedono a me, che sono una persona normale, amante non amante, ma normale, no? Voglio dire, una famiglia con dei figli. Sono incensurato. I tifosi, sappiamo tutti che i capi ultra, se gli ultra, sono tutti... hanno qualcosina, no? Diciamo così, siamo in radio, non possiamo dire. Hanno qualcosina, insomma, hanno, ecco, sono bravissimo, sono dei, ecco. in molti casi sono dei criminali comuni, eh. Bravissimo, ecco, loro tessera del tifoso, non lo so, io so semplicemente da amici che lavorano a Torino, allo stadio, che loro arrivano due ore prima, entrano con cosa vogliono, come vogliono, gli striscioni che vogliono, bastoni che vogliono. Io arrivo allo stadio, mi fanno togliere pure l'affare, il tappo della bottiglia, certo. E mi chiedono la tessera del tifoso, se non entro, no? Questa è la prima. È la prima critica, e non capisco perché continuano a esistere. La seconda è una critica molto leggera alla trasmissione, no? Ma è semplicemente per questo. Mi piacerebbe che una trasmissione come la sua, dove lei, perché è mister, quindi se poi non mi fa capire. Ci mancherebbe altro. Non va ogni tanto come fa report a fondo, no, delle cose, nel senso che magari si lancia un argomento, si dice per fare il tifoso. Ok, la trasmissione si prende carico e dice adesso rompiamo le scatole fino a quando la facciamo togliere o la facciamo mettere a tutti. No? Quindi, perché la sua è una trasmissione fantastica, perché è seguita da tantissimi. Io ho un locale e ne parlo ogni tanto al bar e dico, ho sentito, sì, ho sentito, santi, io la sento, quindi la sentono in tanti. Avete una forza veramente importante, e quindi mi piacerebbe che magari ogni tanto, ok, uno si prende carico di questa stupidaggine, perché è veramente una stronzata la testa del tifoso, e dice, ok, facciamo la battaglia e facciamo in modo che la venga tolta, oppure la si fa per tutti. Ha ragione, no, che venga tolta, perché è una stronzata, come ha detto lei, per usare le parole, per definirla come merita di essere definita, ma ha ragione, e io raccolgo questa intelligentissima critica, e vedremo di lavoro di Piantanida, vedrà lui. Vedremo cosa fare. Però no, la tessera del tifoso, lei dice io la faccio anche. Io no, e soprattutto non vedo perché dovrei farla fare ai miei figli se voglio andare a vedere il calcio. Perché devo farli schedare? Io sono contro, eticamente contro questa forma di improprio e inutile censimento. O forse più che censimento, violazione della privacy. Facciamo così. Mario Latina, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho 75 anni, sono napoletano, sono tifoso del Napoli e ho ancora il rimpianto di una Napoli-Juventus 4-3 al Vovero, più o meno nel 57, sì. arbitrato da Lobello Senior. Sì. Il Carosio stava sulla pista dell'Atletica, circondato dai tifosi del Napoli perché lo stadio non ne conteneva più. La partita fu bella, finché il Napoli pregiava e via di seguito, non successe niente. Io invece le leggo questo messaggio, non ho più tempo, il discorso è lungo, le leggo solo questo messaggio. Mio padre, classe 1923, mi disse: io non andrò più al campo a vedere l'Atalanta perché si picchiano. Questo mi veniva detto nel 1960. Adesso chiudiamo con un'altra chicca. Il nostro amico Poz, Gianmarco Pozzecco, fa il podio storico dei tampinatori di Formentera. Vi lasciamo con questa. Noi ci sentiamo domenica con Giovanni Capuano dalle 5 alle 7. Grazie Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scatritti in regia, Claudia Schiattone in redazione. Ciao a tutti. Facciamo adesso la top 3 dei giocatori Latin Lover a Formentera, cioè chi è che proprio non ne perdonava una. Va bene. Qua posso anche sbagliare, ma mi sa che segno. Ti rispondo lo stesso, però perché sono onesto. Top 3, perdonami. Io. No. Mambassa. Bobo, ieri. No, aspetta, altro. Primo. Matri. Primo Matri proprio. Tra me e lui, Bobo. Secondo Bobo. terzo Pippo, ma con Pippo è arrivato a Formentera un periodo in cui è iniziato ad andare meno, comunque questi tre, Matri, Bobo, Inzaghi. E Pippo Inzaghi. Quel tridente lì. Ma che buongiorno, Allegri, Allegri! Che vuoi? Eh? All'estero? Sto per vederti lì con loro. 9 a 5. Ti arredi? Posso sopportare la sconfitta? Tu stai lì per crollare. Io non sto crollando. Crollerai. Sto insegnando, fratello. Crollerai. Sto insegnando, figlio. L'ho sempre insegnato. Punto partito. Questa è la paura. Partita finita. Voglio dirti una cosa. Pensa a te stesso. Pensa a tua sorella. Non dovrai più preoccuparti per me. Tu tira fuori quell'odio che hai nel cuore, ragazzo. O finirai solo per essere un altro negro. Come tuo padre. La palla è tua. Tutti convocati.